versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, siamo in diretta alle 16.32 primi in questo secondo preciso dagli studi della radio di Milano. Vi saluta Oscar Giannino, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it e per intervenire sul tema del giorno 800240024 numero di telefono 349-238-6666 per gli sms. Di cosa parliamo oggi? In attesa di capire che cosa farà il governo, ma ne parliamo anche domani di questo, ai conti della belva dalle 10 alle 12, non perdetevi l'appuntamento in diretta con me, Carlo Alberto, Carnevale Maffè, Mario Seminieri e Renato Cifarelli, vi daremo una sveglia dalle 10 alle 12 di un sabato frizzante come sempre e faremo un po' di polemicucce sulla scuola, sulle pensioni e così via, ma in attesa di capire sulle pensioni cosa decide il governo per i rimborsi dell'indicizzazione che secondo Corte Costituzionale sono da ridare indietro dopo la riforma Fornero. Ieri l'INPS ha dato i dati sulle pensioni di invalidità quindi nel 2014, e io vi chiedo subito di dire la vostra su questo, sia che abbiate in famiglia, siate titolare voi di una pensione di invalidità, sia che siate a conoscenza di rapporti di invalidità che vi fanno un po' riflettere, sia che abbiate un'opinione in materia. Io sono molto curioso di sapere come la pensate. Perché noi in realtà da anni sentiamo questo tema delle pensioni di invalidità agitarsi nel dibattito pubblico, e con annunci di giri di vite, di conferme, cioè di visite, di verifiche, voglio dire, dei titoli per avere diritto alle pensioni di invalidità. Se andate a vedere, ma adesso poi vi presento i nostri ospiti, i dati dell'anagrafe 2014 dei trattamenti di invalidità, l'elenco di tutti i comuni, oltre che l'INPS lo trovate sul messaggero.it che vi consente di farvi un'idea quindi di quanti trattamenti ci sono in ogni comune italiano, questa anagrafe e questo rapporto aggiornato siamo alle solite, consegna ai politici che annunciano i giri di vita al rango di chi fa annunci privi di conseguenze, perché la spesa, ma adesso ce lo faremo dire meglio da chi ne ha scritto, perché si è preso la briga di andare a vedere bene i numeri, continua ad aumentare, i trattamenti continuano ad aumentare, ma soprattutto le anomalie territoriali continuano a essere tutte lì, tutte intatte. Io mi limito a dire, prima di presentarvi i nostri ospiti, che a Napoli ci sono 7,2 pensioni di validità per 100 residenti, a Milano sono l'esatta metà, 3,6, ecco. E non è che Napoli è quella più alta, ci sono altre parti del sud dove la percentuale si triplica addirittura ulteriormente. Siamo sempre lì, cosa vogliamo immaginare? Che ci sono effetti di inabilitanti per incidenti o per patologie così anomalmente diversificate all'interno del territorio? No, sappiamo perfettamente che non è questa la faccenda. Siccome però spendiamo un punto di PIL l'anno, cioè 15 miliardi in pensioni di invalidità, e tutti ci hanno sempre detto di volta in volta adesso sì, pugno di ferro per le verifiche, tentiamo di riflettere per l'ennesima volta. Primo, sulla fotografia dell'INPS. Secondo, tentiamo di ricordare a tutti quanti com'è che si concedono oggi come oggi le pensioni dell'INPS, per capire che cosa si potrebbe fare e soprattutto come mai in realtà non lo si fa dopo aver tante volte annunciato. Quindi diteci la vostra intervenendo all'800240024, ma intanto gli ospiti. Ecco, cominciamo con Domenico Comegna, che è l'esperto previdenziale, è un ex dirigente INPS e componente del comitato tecnico e scientifico di itinerari previdenziali. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, io innanzitutto chiedo a lei di ricordarci come in Italia si concedono le pensioni di invalidità, cioè territorialmente, nazionalmente, chi compone le commissioni, quali sono i titoli. Faccia finta che chi è in ascolto non ne sappia nulla e si tratti di spiegarglielo in poche parole. Beh, adesso le cose dovrebbero andare un po' meglio da quando le regioni hanno stipulato la convenzione con INPS, il quale INPS provvede direttamente a fare le visite mediche, ma fino a qualche tempo fa le visite le facevano le commissioni delle ASL. Ovviamente queste commissioni locali erano un po', diciamo così, tirate per la giacchetta, diciamo la verità. È ovvio che nel sud c'era un patto non scritto di diversi anni, dove si decenni, cassa integrazione al nord e pensioni di invalidità al sud. Erano i cosiddetti ammortizzatori sociali dell'epoca. Ma certo, però ricordi un pochino, queste commissioni delle ASL erano composte da medici e? No, queste erano composte da medici, erano commissioni sanitarie, sì. Ma è ovvio che venivano, diciamo così, tirate per la giacchetta. Erano influenzate. Erano influenzate anche fortemente. E adesso secondo lei invece, da quando è cambiato il criterio, sì, ci pensa l'INPS, questa cosa dovrebbe essere cambiata, non ci dovrebbe essere più questa? Ce ne dovrebbero essere meno, senz'altro. Poi ci sono le invalidità, quelle dell'INPS vere e proprio, che sono quelle che hanno alla base un versamento contributivo, che non vanno, diciamo così, mischiate con le prestazioni di tipo assistenziale. Questa prestazione di tipo assistenziale la si dà a chi non ha un'attività lavorativa e ha un reddito basso e presenta un'infermità che supera il 74%. Ecco, così, questi sono allora, i requisiti per l'invalidità. Allora, ma se le cose sono cambiate, il nostro secondo ospite è appunto il collega del Messaggero Luca Cifoni, che oggi scrive su questo e si è andato a vedere bene i dati. Grazie innanzitutto di essere con noi, Luca. Ciao Oscar. Allora, se le cose sono cambiate, si vede dai numeri rispetto agli anni precedenti oppure no, scartabellando il... Dunque, si vede che forse i picchi maggiori, come abbiamo scritto oggi, erano stati raggiunti in effetti negli anni immediatamente precedenti, a ridosso di quando poi è stata fatta questa riforma, che effettivamente dà più poteri all'INPS in materia, perché nel 2008-2009 si liquidavano oltre 500.000 nuove prestazioni tra pensioni invalidità, indennità e accompagnamento, quindi prestazioni agli invalidi civili l'anno. Adesso siamo un pochino sotto, però la tendenza è sempre alta. Però siamo passati da 500.000 a 488.000, non mi pare che sia. 488.000 in aumento rispetto dopo che, diciamo, intorno al 2010-2011, complice anche quel momento particolare, c'era stato probabilmente una certa caduta, abbiamo ricominciato a salire e siamo ai 15 miliardi circa di spesa. 15 miliardi di spesa e si torna, in realtà i numeri continuano a crescere. Però se permetti Oscar, a me colpisce ancora di più, al di là del trend che poi va letto bene perché ci sono indubbiamente le tendenze demografiche e tutto quanto, ma mi colpisce moltissimo l'aspetto territoriale di questa faccenda. Perché guardando bene dentro si scoprono delle cose oggettivamente... Dinne un po'. Ma la provincia di Oristano, che guida alla grande la classifica, diciamo, delle prestazioni, ovviamente rapportate al numero degli abitanti, perché noi abbiamo fatto questo lavoro, le abbiamo rapportate a 100 residenti e visto quando è... La media nazionale è su 4,76 prestazioni ogni 100 residenti e ci sono... oltre 50 comuni in provincia di Oristano che sono sopra il 10 su 100 su 300 comuni italiani, che diciamo del top. Onestamente non si capisce perché, cioè onestamente ci sarebbe bisogno da anni e anni di fare una verifica dell'oristanese. Come al solito, però voglio dire, però, i dati saltano all'occhio, così come se si guardano in genere i dati sono nei piccoli centri, per i motivi che diceva l'altro nostro interlocutore prima, in genere c'è una maggiore densità, però anche tra le grandi città c'è una forte differenza. E per esempio abbiamo, anche qui io non voglio confermare nessun tipo di stereotipo, però abbiamo Napoli che ha una densità di 7,2 trattamenti su 100 residenti, a fronte di valori di più bassi di Roma, di Milano che sta sotto il 4, eccetera. Tra l'altro con una caratteristica demografica di Napoli e della Campania che in genere è più con giovani, diciamo, del... Quindi in teoria ci dovrebbero essere meno invadi, non di più. Uno si dice che sarà successo, questo è. Oh, io poi faccio notare che questo sta nella tabellina che avete pubblicato, che in realtà se uno va a vedere Venezia, Torino, Bologna, Milano, Firenze, Verona, sono tutti, ma abbondantemente anche di una unità inferiore rispetto alla media nazionale del 4,76 sotto, cioè Verona è 3,40. Diciamo, sul nord, sulle grandi città del nord, cioè diciamo relativamente avanzata, relativamente Genova, che però come è noto la Liguria ha una caratteristica demografica piuttosto, diciamo... Sì, diciamo è la regione oramai più anziana d'Italia. Esatto, esattamente, quindi potrebbe forse su quello trovarsi una spiegazione. Però altre, come dici tu, saltano all'occhio queste differenze. Ma adesso poi torniamo da Domenico Comegna a farci dire la sua esperienza di ex dirigente INPS, esperto previdenziale. Ma Luca, invece, la tua di opinione come giornalista che si occupa di finanza pubblica da tanti anni, che cos'è che in realtà, per l'opinione che hai scartabellando documenti poi dell'INPS da un bel po' di anni, non vorrei farti apparire settuagenario, però insomma un po' di anni che fai questo mestiere, però perché alla fine c'è stata la stretta e poi si è ricominciato? Ma ripeto, uno studio forse ancora più serio dovrebbe poi andare a vedere, a confrontare con le tendenze demografiche, però io ho il sospetto che appunto il fatto che si sia avuto un calo negli anni 2010-2011 e che poi adesso in qualche modo il trend in crescita stia ripartendo, mi fa pensare che si va, come spesso in questo paese, per ondate, diciamo, emotive e calanti di indignazione, diciamo, per cui a un certo punto alcune vicende, cioè per la stessa ragione per cui i famosi ciechi che guidano eccetera, per la stessa ragione per cui i politici che hanno votato la riforma Fornero oggi sono in prima fila, essendo cambiata l'aria, per dire restituiamo tutto a tutti perché era sbagliata la legge Fornero che hanno votato loro, molti di destra fanno esattamente questo, quindi noi siamo un paese che su queste cose va in maniera erratica. Io dico sempre che ci vuole il massimo rispetto per chi invalido lo è per davvero, e quindi anche a tutela di queste persone che hanno bisogno di una prestazione da parte dello Stato, bisognerebbe cercare di ricondurre il fenomeno in un alveo di normalità, ecco. No, non solo perché sottolineiamo, noi tra il divario tra contributi e totale delle prestazioni che l'INPS, quindi metto insieme sia la previdenza che l'assistenza, sta in piedi ogni anno solo perché ci sono 90 miliardi di trasferimento di fiscalità generale. Come ovvio, poiché qui siamo a 15 miliardi, andare un po' a fare pulizia significherebbe magari dare più risorse agli invalidi davvero e soprattutto recuperare risorse, visto che poi si tratta di ridare equilibrio a questo sistema. Oggi come oggi, visto che l'incertezza è dove si prendono le risorse per applicare la sentenza della Corte Costituzionale, cosa diversa è se non avessimo questi numeri che effettivamente fanno molto molto molto riflettere. Domenico Comegna, ma quando lei era dirigente dell'INPS, adesso non è più dirigente dell'INPS, quindi forse diciamo, è meno tenuto di un tempo al riserbo sulle cose di istituto, ma l'INPS era evidente che sapeva perfettamente, come ci ha detto prima, che si davano le pensioni di invalidità a percentuali doppie, triple, quadruple rispetto ad altre parti d'Italia, perché era una specie di ammortizzatore sociale, per quanto improprio, di un integratore del reddito, diciamo così, a spese pubbliche. E però voglio dire, una cosa simile avveniva con una specie di consenso esplicito, consenso implicito con la politica, con i sindacati, con chi altro? Cioè, come è funzionato questo compromesso mai dichiarato? Beh, l'INPS non poteva fare niente, non aveva alcun diritto di interferire. Pagava e basta. Le sanitarie, punto e basta. Perché gli preparavano il pacchetto. Infatti era a carico delle regioni la spesa, preparavano il pacchetto e facevano i conti alla fine dell'anno, ogni regione doveva dare un tot di spesa. Per quanto invece riguarda il trend di cui si parlava prima, ho una mia idea, il fatto che si sia prima abbassate poi improvvisamente, si tratta della crisi ovviamente, nel 2008-2009 in poi si è riacutizzato il problema e quindi da una parte... Però scusi, si è acutizzato il problema della perdita di reddito, non credo che sia acutizzato il problema di una più elevata percentuale di invalidità. Sì, perché i poveri ricorrono spesso al... l'unica cosa per portare a casa un assegno. Ma io ho capito, ma il problema è che ci sia gente che ci provi a non avendo il titolo, e lo capisco. Quello che non capisco è che però lo Stato ci metta il timbro, questo, e questo non posso capirlo, perché altrimenti dovremmo averlo fatto anche nel resto d'Italia, dove nel 2008-2009, voglio dire, abbiamo perso più PIL e più reddito nel 2008-2009, una crisi su export nel nord che al sud. Eppure non è che la gente improvvisamente ha triplicato le richieste di rapporti di invalidità, non sto dicendo antropologicamente, sto dicendo che non è avvenuto. Se lei mi dice dopo negli ultimi anni, dopo il 2011-2012, torniamo a farlo di nuovo al sud, perché in quel caso sì, è il sud che ha perso mentre il nord recuperava un pochino, e ho capito, ma lo Stato a quel punto, anche se abbiamo fatto la riforma, eppure continuiamo a ragionare così. Allora io faccio questa domanda, la risposta però la chiedo a Domenico Comeni e a Luca Cifoni dopo l'interruzione di 60 secondi sull'informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.48 primi con Luca Cifoni del Messaggero e Domenico Comegna, esperto previdenziale ex dirigente INPS. Stiamo analizzando il rapporto annualizzato aggiornato ieri dall'INPS con i dati comune per comune del rapporto di invalidità nel nostro paese. È un trend che ha ripreso a crescere dopo due anni di giro di vite, diciamo così, nel 2011. Siamo a 488.000 nuovi trattamenti aggiuntivi di cui dati nel 2014, si torna verso la media dei 500.000 all'anno, purtroppo degli anni, che confermavano questo, un utilizzo un po' allegro di questo strumento. Non stiamo mancando di rispetto agli invalidi veri, siamo invece convinti che avere un criterio preciso per tutti farebbe recuperare risorse per trattare meglio gli invalidi e poi per reperire risorse anche per altre parti del nostro welfare che ne sono invece carenti. Quando Domenico Migno mi ha detto, ma per conto della crisi, per via della crisi, ecco perché torniamo di nuovo ad avere un atteggiamento più lasco, la mia domanda è, ma non avevamo imparato che era sbagliato e meglio non averlo? Che c'entra la crisi? Beh, c'entra sì, perché il povero chi non riesce a, poi si dà da fare, non dimentichiamo che i titolari di assegni di invalidità civile sono elettori, sono possibili elettori. Ma lei mi sta sempre descrivendo una patologia, quindi però sono elettori, d'accordo, questa è la maniera per elemosinare voti. Questo è ineluttabile. Ma perché io vivo per un sogno, quello in cui non si danno le pensioni di invalidità per voti, ma le si danno solo a chi ne ha diritto. Magari risparmiamo per dare anche un po' di più a chi ne ha diritto, perché è invalido davvero. Vedo un mucchio di telefonate e sentiamo cosa ci dice, per esempio, Anna da Parma. Anna. Buonasera, dottor Giannino. Buonasera. Giannino e basta. Io voglio portare la mia testimonianza, perché purtroppo sono invalida al 100% in seguito a un'emorragia cerebrale. Che è avvenuta nel 2010, e chiaramente le visite che io ho, a cui io sono stata sottoposta dalle commissioni mediche, sono state un vero calvario. Cioè a Parma hanno la manica stretta. No, nel senso che sono praticamente, non sono rispettosi della dignità di una persona, perché sebbene che io sia su una sedia a rotelle, sono sempre una persona invalida, ritengo di essere sempre una persona. Ma certo che lo è, ci mancherebbe altro. Ha detto, una persona a metà. Ma no, lei è anche il malgrado, lei è una persona, punto. Poi la sedia a rotelle, rispetto al fatto che è una persona, la sedia a rotelle non c'entra niente. La prima visita che io ho effettuato a Borgo Valditaro, in provincia di Parma, dove io risiedo, la commissione medica, preciso, nessuno dei componenti della commissione aveva un cartellino di riconoscimento. Io non sapevo con chi stavo parlando. Vabbè, ma bastava chiederlo, immagino. Sì, però comunque il primo impatto è stato: lei perché non è stata sottoposta a intervento chirurgico? Io che ho risposto, io sono stata trasferita all'ospedale di Parma, che dista da Borgo Valditaro 70 km, con l'elisoccorso, e non ero in stato di coscienza. Sì, diciamo, insomma, domanda un po' rudi, ma poi alla fine la cosa è stata sollecita e le hanno riconosciuto poi i suoi diritti allo stato, oppure è andata avanti così? Un calvario vario, l'unica cosa che mi chiedevano appena io arrivavo al cospetto della commissione medica, lei quanto pesa? Perché ovviamente io da 5 anni che non mi muovo, non sono un fuscello, ma io non stando in piedi non posso neanche salire su una bilancia. No, ho capito, però insomma Anna ci dice criteri non solo molto rigorosi ma anche poco rispettosi. Io sui criteri rigorosi posso parlare per Torino, un componente della mia famiglia, sicuramente un componente della mia famiglia ha avuto un esito la sua richiesta rispetto alla sua patologia molto ristretto in termini di punti, quindi io posso dire che a Torino, l'esame è stato discutibilmente rigoroso, però rigoroso, questo è capitato appunto con componente della mia famiglia. Sentiamo Alessandro, la provincia di Napoli, prego Alessandro. Buonasera a tutti, volevo solo ricordare a tutti che in effetti oltre alla commissione medica dell'ASL che in prima istanza valuta le istanze di invalidità civile, ce n'era fino a qualche anno fa una seconda presieduta da membri del Ministero del Tesoro. Quindi fare delle illazioni su invalidità civili allegre o date con facilità è un po', come dire, un po' pericoloso. Perché ma aspetti, lei dice che è infondato, quindi? Assolutamente, medici che sono hanno una funzione pubblica, pubblici ufficiali in quel momento. Alessandro, ma allora Alessandro, lei è convinto che ci sia una distribuzione territoriale con un coefficiente di dispersione così elevato dell'invalidità tra nord e sud? Perché? Se davvero, cioè, cosa dobbiamo pensare? Perché, che c'è una concentrazione di patologie e accidenti inabilitanti così diversa nel territorio nazionale tra nord e sud? Beh, mi pare difficile. Ma probabilmente no? Sì, o probabilmente sì. Non c'è conoscenza dei propri diritti. Sai di quanta gente al nord non sa nemmeno come si fa una domanda di invalidità civile? Questo è interessante. Alessandro dice non ci mettete la croce sulle spalle, a noi siete voi che non reclamate i vostri diritti. Sentiamo cosa dice Maria Grazia da Modena. Maria Grazia. Ah, buonasera dottore. Dottor Giannino. Ecco. Sì, senta, io 30 anni fa sono venuta a conoscenza di questo episodio, che una persona di Napoli che abitava a Modena. Sì. Andò un mese a Napoli, stava benissimo, aveva circa 35-36 anni e venne a casa con una pensione di invalidità. Aia, Maria Grazia, adesso fa arrabbiare il nostro napoletano che invece ci ha detto il contrario. Ma è la verità. Senta, Renato, dalla provincia di Treviso. Renato, invece? Sì, buongiorno Giannino. Buongiorno. Guardi, io ho una figlia in 103 grave. Per cui sappiamo di cosa stiamo parlando. Allora, ho già fatto una domanda e me l'hanno scartata all'INPS di Treviso senza risposta. Lei si immagini che l'unica... hanno dovere di motivare. Sì, ma infatti la risposta era molto complicata, sono intervenuto, ho chiesto un appuntamento, me l'hanno spiegata. Le dico che l'unica domanda che gli hanno fatto a mia figlia è stato se sa leggere l'orologio. Vabbè, Renato, ecco, comunque, grazie a Luca Gifoni e a Domenico Comegna. Come vedete, ascoltando i microfoni si sente una disparità dei criteri in Italia e mi piacerebbe avere più tempo per farvi riflettere molto. Intanto grazie al messaggero a Luca Gifoni che hanno tirato fuori l'argomento. Andate sul sito e vedete il vostro comune e continuiamo a ragionare. Appuntamento domani alle 10:00 alle 12:00, Conti della Belva.